Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non saprei descrivervi quale contraddizione convive nella donna che ho davanti. È una donna molto bella, ben curata, ben vestita, bei capelli, belle mani, belle unghie, un bel trucco. Ma tiene lo sguardo basso, come se in realtà volesse nascondersi, come se qualcosa in lei le imponesse un atteggiamento che è in totale contrasto con quello che è la prorompenza del suo aspetto fisico. Ma cosa mai avrà questa donna vissuto nella sua vita di questo contrasto che fa lei suora e maliarda allo stesso tempo? Non posso fare a meno che domandargli. La cosa che mi ricordo più lontana è la mia vita a Brescia, la mia infanzia a Brescia, figlia di una milanese che aveva sposato un bresciano, però ecco, la lontananza da tutta la famiglia della mamma, che era una famiglia numerosa, la mamma era l'ultima di 9 figli, e quindi tutta la famiglia della mamma a Milano e io l'unica, diciamo, ti hanno lasciato sola? No, beh, non è stata, diciamo, volontaria, è stata una scelta della mamma di seguire il papà a Brescia, perché a quell'epoca, negli anni 60, vabbè, non è che era una distanza di ore di Brescia-Milano, sono quasi 80 chilometri negli anni 60, non erano pochi. Già, è vero, forse in quegli anni è vero, sì. Oggi pensiamo, ti prendi un treno, ci arrivi, sei presto, che ci vuole Brescia-Milano. Invece allora magari ce l'ha più tempo. E per te è stato un distacco importante, quindi? Sì, perché poi, essendo figlia unica, mentre invece i miei cugini crescevano tutti insieme, io crescevo da sola, diciamo, in una realtà, tra l'altro, cittadina, mentre loro erano della provincia di Milano, quindi nella campagna milanese c'era tutto un sistema di vita molto più... Sì, però è paradossale, soprattutto in quegli anni la gente andava verso Milano dalle campagne e si inurbava, te invece conoscevi una realtà di campagna nell'Interland di Milano, sei andata a Brescia, che poi è una città di provincia, ma per te magari è una grande città, visto che venivi dalla campagna. Esatto, la mia percezione era quella, vedevo i miei cugini crescere più allo stato brado, mentre invece io crescevo con una, diciamo, educazione che poi è stata un pochino condizionata dalle scuole private, perché poi l'uniche che facevano il tempo pieno a quell'epoca erano le scuole delle suore. Quindi hai studiato dalle suore? Religiose. Sì. Da che età? Praticamente dall'asilo. Cioè dall'asilo fino a quando? Fino alla terza elementare. Beh, si è fatta un bel po' di suore. Com'è stato il ricordo delle suore? Ma io non facevo solo la scuola dalle suore, io andavo anche in colonia dalle suore. Io praticamente finivo la scuola e facevo 40 giorni a Riccione con le suore, e quello l'ho fatto dai 5 ai 15 anni. cioè 10 anni di suora. Sì. È quasi come prendere i voti, praticamente. No, diciamo che mi è nato un po' una repulsione, ma non nei confronti delle suore, nei confronti, diciamo, del fatto che i miei amici andavano al campeggio oppure andavano in vacanza con i genitori, e l'unica realtà che invece io conoscevo era quella di andare in colonia dalle suore. Ma era una necessità per i tuoi o era una scelta ideologica? E loro lavoravano entrambi, avevano lavori, quindi non c'era alternativa, diciamo. Secondo il loro punto di vista non c'era alternativa. Non ne sei convinta te? No, nel senso che almeno 15 giorni, 20 giorni insieme ci si sarebbe. Ma magari loro lavoravano, sai, questa era una generazione che non aveva il concetto delle vacanze, pensavano magari a procurarti una vita migliore, quindi per loro era normale che invece di andare in vacanza tu andavi dalle suore e loro continuavano a lavorare. Esatto, probabilmente visto dal loro punto di vista, sì. E quindi questo ti ha condizionato anche le amicizie nel periodo cruciale dell'adolescenza, praticamente, cioè il momento in cui sbocciavi alla vita, te ne andavi in colonia dalle suore, magari le tue amiche avevano già i primi amici, i primi amori. Sì, io infatti ero molto, cioè io caratterialmente sono molto determinata, infatti ho incontrato persone che mi hanno conosciuto in quel periodo lì e mi hanno detto che io ero una leader, però io invece mi sentivo... Beh, come andare nella legione straniera, secondo me, a star dalle suore, e se non ti difendi soccombi, quindi penso, insomma l'immagino così, capito? Sì, devi difenderti. Però ecco, poi diciamo nelle relazioni con l'altro sesso invece ero molto timida perché non sapevo come approcciarmi, cioè ero abituata a fare un po' la leader nel campo, diciamo. Cioè era una capobanda di teppiste che operavano nell'ambito delle suore, ecco, una cosa del genere. Sì, ma no, ma non niente di che, beh, ecco. Era solo una questione di sapere dove muoversi per ottenere magari qualche cosa di più all'interno della colonia estiva. Cioè saper galleggiare, ecco, diciamo, quello era il problema. Bravissimo. Se no, il rapporto con le suore com'era? È vero che sono così severe? No. Quelle che ho conosciuto io, la maggior parte, erano anzi molto progressiste, erano molto aperte. Poi, vabbè, dovevano avere a che fare con delle ragazzine o delle bambine, per cui dovevano avere un po' di disciplina. Però, no, guarda, non ho un ricordo... Vabbè, ti hanno formato le suore, quindi... Sì, però ecco... E quindi tu che ne hai venuto fuori? Una ragazza di molto determinata, decisa, di buoni costumi, seria, quello sei venuta fuori a 15 anni, quando sei tornata, diciamo, alla vita laica. Sì. E questo ti ha creato problemi in anni in cui magari la gioventù era più scapestrata, libera, tendeva... Cioè eri considerata la brava ragazza, te? Sì, ma non sentivo la necessità di trasgredire. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Poi dopo invece il mondo com'è stato? Ma mi sono sposata giovane, a 22 anni, a 23 anni avevo mio figlio. Quindi è prestissimo, tu 15 anni, fino a 15 anni alle suore. Altri 5 anni ti sei già fidanzata e sposata. Appena eri libera subito hai trovato diciamo, una maniera felice per dividere la vita con qualcun altro. Sì, però è stata più una fuga dalla famiglia, nel senso che tutta questa distanza che c'era stata nel corso della mia vita, diciamo, di figlia, quando poi dalle suore non ci potevo più andare perché ero troppo grande, c'era il vuoto. O ti facevi suora o dovevi affrontare la vita, che era bella difficile a quel punto, no? Esatto, quindi quando a 22 anni ho conosciuto quello che è stato mio marito, ho preso l'occasione per uscire dalla... Cotto e mangiato. Però, sì, non è stata una scelta felice. Perché non è stata felice? Anni, dopo 5 anni ci siamo separati. Vabbè, ma gli amori finiscono, eh. Ma tu già lo sapevi dall'inizio che era, diciamo, soltanto un'ancora da cui appigliarsi per essere trascinata fuori dall'influenza familiare, da quello che non ti piaceva? O eri convinta te quando hai detto che lo sposavi? È iniziato. No, probabilmente era un'ancora, però non lo volevo ammettere a me stessa perché non era carino per lui. Da. Mm. Però sai, non te credere, non è che è una cosa così poco frequente. Ma perché l'alternativa era così atroce? Cioè, in famiglia cos'è che a quel punto, una volta che eri grande, adulta, cosa ti pesava? Potevi fare quello che volevi, penso, no? Non c'era empatia, non c'era... Una famiglia senza affetto, dai, come tante così. Sì. Tu hai bisogno di qualcosa di più. Ma no, forse non è che sei scappata da loro, hai inseguito quello che per te era un miraggio di qualcuno che ti volesse bene, quello che non avevi avuto prima. Ma era un uomo più grande di te? No. Coetaneo? Quasi coetaneo. Quindi vabbè, è una storia d'amore normale. Ma con lui sei rimasta a Brescia o sei andata da un'altra parte? No, con lui sono rimasta a Brescia, dopo 5 anni gli ho manifestato la mia infelicità. Gli hai detto proprio, hai avuto il coraggio? Sì, gli ho detto io così non sono felice. Ma c'avevi figli nel frattempo? Sì, abbiamo avuto un figlio. Quindi il bambino era già, aveva già 5-6 anni quando aveva? Quando... Sì. E gli hai detto non ce la faccio più? Sì, gli ho detto guarda, io non sono felice, non so tu. E lui che ha detto? Mi ha detto che gli andava bene così, però se io non ero felice... Cioè lui sarebbe anche accontentato, diciamo, ma se non eri felice sì. Te. Però non era un cattivo uomo forse, alla fine... No, assolutamente. Anche lui cercava, il suo pretesto per crearsi una vita, sai, non è che sempre la gente si mette assieme per gli amori fulminanti, le passioni carnali, la gente cerca anche un po' di quiete, di costruire qualcosa, forse era questo, a te non ti bastava evidentemente. Quindi non c'è stato trauma nella separazione? No. E i tuoi che hanno detto? Non c'è stato nessuna tragedia. Beh, non c'è nessuna punta emotiva. Sembra quasi che tutto un elettroencefalogramma costante dalla nascita fino al momento del divorzio. Strana questa cosa però. Era la tua vita, non gliene importava nulla. Scusa, ti faccio domande perché sono curioso, capito? No, non saprei rispondere per loro. Come ti ha detto, vabbè, non ci vuoi stare più, ciao. Così. Più o meno. Ma tu avete conosciuto qualcun altro che vedevi come alternativa? No, io sono stata single per tantissimi anni. Dopo la fine. Proprio... E il bambino chi se lo teneva insieme? Ve lo siete diviso? Esatto, condiviso. Sì. Quindi diciamo, da questo punto di vista non c'è nessun rimorso, è stata una civile, meglio una separazione civile che una separazione con degli strascichi, no? Tutto sommato sì. Devi anche essere grata che alla fine ha secondato quello che era il tuo desiderio, non è che sei frapposto, ha fatto ricatti, è stato corretto dal punto di vista del mantenimento, queste cose. tutto perfetto. Quindi sei proprio la rappresentazione, almeno fino a questo punto della tua vita, poi adesso poi mi racconterai il resto, la rappresentazione di una vita senza imprevisti. L'imprevisto più grande magari dalla campagna di Milano si è andata a Brescia, forse quello. Poi le suore, fino a 15 anni, poi un po' di anni così in attesa, ti sposi. Ma ci sono stati dei momenti di passione, di amore, oppure è stato tutto tranquillo, come un contratto, come un custode? Sono arrivati in questa seconda fase della mia vita. Ma in quella prima fase, fermiamoci alla prima ancora, non avanzare sulla seconda. La prima fase non la ricordo così. C'era, era diciamo il sostituto della reclusione dalle suore, sei passato da una specie di suora maschio, ecco, una cosa del genere. Sì, non so come dirti, ero compressa in un ruolo. E quello le suore ti avranno educato a dover fare la moglie, la madre, la donna tradizionale, immagino, questo avranno insegnato le suore. Quindi pensavi. Beh, sai, rispetto alle generazioni che hanno preceduto, che sono rimaste compresse tutta la vita fino alla fine, tu almeno hai avuto il guizzo di capire che non era per te. È stato un gesto moderno il tuo, tutto sommato. Sai, tante alla fine passata l'età, poi si rassegnano, dice, beh, tanto ormai è così, mangiamoci sta minestra, e vanno avanti così. Tu non hai accettato questo. Non ce la facevo, non era nelle mie. Ma cos'è che ti mancava? Fammi capire, cos'era? La solitudine, un'angoscia, una tristezza, il desiderio di provare qualcos'altro, conoscere qualcos'altro? Era innanzitutto continuare il lavoro, la crescita professionale. Cosa facevi in quel periodo di lavoro? Non ce lo siamo detti, che facevi? Ma in quel periodo ho lavorato in diverse aziende nel settore della moda, però a livello impiegatizio. Vabbè, facevi un lavoro d'ufficio. Sì, 25 anni nel settore come dipendente della mia vita passata in uffici di diversi. Quindi diciamo da quando hai cominciato a lavorare? Da quando mi sono sposata, dai 22 anni. Quindi altri 25 anni hai sempre lavorato? Sì, sì. Quindi anche quando ti sei separata hai continuato a lavorare? Sempre, sempre. Sto facendo i conti, quindi diciamo 20 anni di lavoro dopo il matrimonio, più o meno. Sì, sì. Sempre zitella? Sì. Dai, non è possibile, non ci posso credere. Dai, altri 20 anni, sta 20 anni così. Qualche storia. E dai, che ti vergogni, come roba passata. No, perché mi mette tristezza, vuol dire proprio le suore ti avevano condizionato, cioè praticamente è diventata una suora di clausura praticamente. Non mi vergogno per quello, nel senso che era la condizione che mi sembrava più naturale. Quando non si conoscono altre esperienze non ti mancano. A che anni siamo arrivati ormai? Siamo arrivati già quasi alla metà degli anni 90, qualcosa del genere? Sì, però non. E non è che ti mancavano strumenti per vedere come girava il mondo. E dove vivevi? Ancora, intanto stavi ancora a Brescia. Quindi Brescia proprio ti sei inchiodata, è una città, diciamo, bella, bellissima, ma è una città in cui tutti sanno tutto di tutti, quindi alla fine non credo che uno c'ha grandi modi di conoscere persone, vedere persone che non sono quelle del giro quotidiano, del passeggio quotidiano nelle strade della città, nelle piazze, i negozi. Ma sì, c'erano gli amici del quartiere, c'è la compagnia del quartiere. Ma tu, scusa, tu eri una donna separata, gli altri amici del quartiere come ti consideravano? Loro sono stati tutti accoppiati e tu uscivi sola. Bravissimo, hai proprio centrato il quadro, io ero la single che usciva con coppie di fidanzati o di altre persone sposate. I'm looking for you in the woods tonight. I'm looking for you in my flashlight. I'm searching from in the heart your dark made urgent. And I pace myself in racing. Gain the wolf, gain the wolf. Conjure me as a child. Down the website. informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Che è successo a un certo punto? A un certo punto ho incontrato un ragazzo che viveva nella provincia di Pavia. E com'è stata l'occasione? Cosa ti ha dato l'occasione? Ma l'occasione mi ha dato il modo di conoscere una persona che era del sud Italia e abbiamo cominciato a frequentarsi. Ma l'occasione qual è stata di conoscervi? Perché attraverso una collega. Attraverso una collega di lavoro. Che aveva capito che era ora che tu cambiavi un po' aria, ecco questo. L'hai segrata, esatto. Sì. Esatto. Perché era un po' più sveglia della media delle altre tue amiche, ha detto no, basta, con sti salami, qua bisogna trovare qualcuno che la prende e le ridà un attimo di vita, le fa una respirazione profonda per farla ritornare in vita. E lui ci è riuscito? Sì, per un po' di tempo sì, anno. Qualche anno, ma butta via di questi tempi. Quindi è nata una storia, finalmente una storia d'amore forse, o sbaglio, sì, o dico troppo? È nata una storia d'amore. Oh, e questa scoperta più o meno a che età è arrivata a te? Quasi 40 anni? Beh, siamo a 45 anni. 45 anni? Vabbè, mica è tardi, ma mica è tardi, scusa. No, no. Anzi, per lui sarà stata una gran gioia, figurati, trovare una donna che conosceva la vita, che però aveva questo stupore da bambina nel scoprire qualcosa che non conosceva. È stato bello? Sì, per lui ho scelto di lasciare la Lombardia definitivamente. Vabbè, sai che sacrificio, non vedevi l'ora, figurati. Esatto. Per lui, esatto. Cioè, lui ti ha fatto sto regalo che ti ha dato finalmente la forza di mollare gli ormeggi e andartene, no? Esatto, perfetto. In cambio tu cosa gli hai dato, secondo te? In cambio? No, perché deve esserci sempre un'equità di corrispondenza, se no l'amore mica si regge sulla passione, la passione si estingue abbastanza presto. Deve esserci un bilanciamento fra quello che tu metti sul piatto e quello che prendi. Tu cosa gli hai dato a lui? Beh, in cambio io l'ho raggiunto. L'hai seguito? Il trasferimento l'ha fatto prima lui, nelle Marche, per motivi professionali. Io ho fatto un anno e mezzo avanti e indietro a pendolare per raggiungerlo nei weekend. Che per adesso era sempre comunque un bel viaggetto adesso, anche se i tempi erano cambiati, non è che andare da esatto. Ci voleva, è impegnativo. Tutti i weekend tu andavi da lui e lui non veniva su da te? Ogni tanto. Però ti muovevi, immagino che per te preferivi cambiare aria, era meglio, no? Bravissimo. Ma ci credo, a casa tua c'aveva ancora i genitori, i suoceri, il figlio, gli amici, le amiche, ti diceva ma com'è, sei con uno, com'è, come sta? Tutti quelli che tu hai rifiutato nei precedenti 20 anni ti avranno guardato come, figurati, con un odio probabilmente nascosto e sottilmente simulato, ma evidente. Scusa, quanti ti avranno fatto la corte prima e tu l'hai mandati a casa così? E adesso hai trovato lo straniero, poi lo straniero è sempre inquietante. Vabbè, però non ti vedo molto entusiasta, non è che fai salti di gioia a parlare di quest'uomo, come mai? Perché poi, come dicevo, non al momento era una storia d'amore importante, con progetti importanti. E qual era il progetto? Che progettavate? Progetto di risposarci, di rifare una famiglia entrambi. Vabbè, c'avevi già 45 anni, anzi anche più perché è passato un po' di tempo. Non bastava stare insieme, volersi bene, costruire qualcosa, volevi riprovare un'altra volta a fare il matrimonio come si deve? Sì. Vabbè, sì, mica ti critico, ti faccio le domande insidiose ma non ti critico. No. Voglio capire il modello. No, quindi, apparente, c'era un modello che non eri riuscita a portare a compimento come era nella tua volontà e ci volevi riprovare con lui. Ma è lecito, ragazzi. Poi per una serie di situazioni. C'eravate andati vicini? C'eravamo andati vicini. Però ancora non convivevate. Eri tu pendolare dell'amore e andare a trovare lui. Poi dopo un anno e mezzo di questo pendolarismo sono andata a vivere con lui. Ah, quindi avete convissuto un periodo? Esatto. Mi sono trasferita nelle Marche. E stavate assieme come una coppia a casa? Esatto. E non è stato bello, scusa, non eri contenta? era tutto perfetto. Purtroppo poi ho scoperto che aveva una dipendenza che non era stata rivelata e questo ha messo tutto in discussione. E non te ne eri mai accorta? Non avevo percezione, proprio perché io quell'anno e mezzo lo vedevi poco. Lo vedevo poco. Non è una cosa da cui poteva uscire, secondo te? Poteva... Diciamo che ho provato a proporglielo, però non ha avuto successo, quindi ho preferito allontanarmi. E questo diciamo ti condizionava il rapporto, logicamente, perché finché lo vedi una volta a settimana una dipendenza si può anche nascondere, e quando vivi assieme, adesso non so che tipo di dipendenza è, comunque ci sono i momenti in cui una persona la vedi un po' diversa, o sbaglio? Sì, ma metteva in discussione tutto, anche il bilancio familiare. Le dipendenze costano familiare. Care. E non ti eri mai accorta di nulla, te? Non mi dava modo di capire quale fosse la forma di investimento che lui aveva in questa dipendenza. Ma quindi giocava, allora non è che prendeva sostanze, scusa. Esatto. Ah, ecco, no, perché se fosse uno che si attaccava alla bottiglia o si drogava, te ne saresti accorto. No. Era un ludopate, diciamo, ecco questo. Sì. Ah, ecco. Sì. Beh, questo è impossibile capirlo. Finché non metti le mani nel conto in banca, l'apparenza è un comportamento, adesso ho capito. E non la vedeva forse come una malattia, lui lo vedeva come un suo passatempo. No, assolutamente, anzi. Come te ne sei accorta? Hai visto i soldi che mancavano? Ecco, quando hai cominciato a viverci insieme ti sei accorta che mancavano i soldi? Sì, dovevo fare sempre le spese io, pagare le utenze io e chiedere conto. E come l'hai scoperto? Qual è stato il momento della scoperta? Ma è stato il fatto che qualcuno mi ha messo, diciamo... Te ne hanno detto, guarda che tuo fidanzato gioca. Sì. E poi comunque era un fattore oggettivo, perché dopo qualche giorno... dopo aver preso lo stipendio già non c'era più giorno, era proprio malato forte a questo punto, non era uno scherzo, era proprio una cosa. Sì. E come si è giustificato lui quando gliel'hai detto? Per lui era una cosa che io travisavo, per lui era un passatempo, che non era così come la vedevo io. Ma tu gli facevi i conti, cioè, guarda, non c'è più una lira in banca, hai preso lo stipendio l'altro ieri, fammi capire che fine hanno fatto. Però si sa che chi ha una dipendenza di qualsiasi tipo, certo, non l'ha. Se no non si chiamerebbe dipendenza. Ecco, non ne ha la consapevolezza, altrimenti si metterebbe in discussione e comincerebbe un percorso di recupero. Tu gliel'hai proposto questo? Sì. Gli hai detto che ero matta. E com'è stato? Allora tu gli hai detto, guarda, io non mi vedi più, e hai fatto la valigia un'altra volta e te ne sei andata? Io ho... proprio buttato l'anello di fidanzamento dalla finestra. Lo potevi lasciare, almeno se lo giocava, poveraccio. E sono uscita. Quindi questa volta il lascio, questa volta è stato traumatico, non è come l'altra volta che amici come prima abbiamo scherzato. Questa volta è stato traumatico, penso, no? Sì, molto, molto. Cioè strilla, urla, lanci di sedie, no? No, molto più, diciamo, signorile, me ne vado. E tu alle spalle ti eri lasciata qualcosa? C'avevi una casa, un posto dove tornare, oppure non c'avevi una via di fuga? Non sapevo dove andare. Ah, quindi ti eri tagliata proprio la vita? Ma non volevo tornare indietro, non volevo tornare in Lombardia. Prendere è diventata una polide, non c'avevi più nemmeno un posto tuo, perché diciamo la campagna d'origine, penso dopo tanti anni, non esisteva più, immagino. Sarà diventato esatto. Uno dei Milano 2, Milano 3, Milano 5, non so che sarà diventata quella campagna. Come la via Gluck. Brescia non ne parliamo, figurati, torni lì a morire di tristezza, di inedia, a guardare invecchiare le tue amiche con i loro fidanzati. Che hai fatto fisicamente? Fisicamente ho cominciato ad andare inizialmente in alberghi e poi cercare. Che c'è una valigia con tutte le tue cose dentro, giravi così come. Sì. Una senza padre, mamma mia che tristezza. E poi ho cercato. Da sola così, andavi albergo con la valigia, sì, ti scaldavi la sera la minestrina col fornelletto in camera d'albergo. Piangevo tutto il giorno. Continuavi a lavorare, scusa, il lavoro l'hai mantenuto? Sì. Beh, per fortuna. Il lavoro l'ho mantenuto. Ma quella è una gran fortuna, perché se perdevi anche il lavoro, che facevi? Quello era un negozio mio, avevo aperto un negozio. Ah, nel frattempo avevi aperto un negozio? Sì. Quando ancora funzionava, diciamo, la storia con questo signore? Esatto, sì. Beh, però avevi investito molto e sei diventata imprenditrice, da impiegata eri diventata imprenditrice. È un passaggio fondamentale, non me lo dici? Sì, nel frattempo ho aperto un negozio di articoli per l'infanzia di seconda mano. Ah, beh, un settore evidentemente funzionale. Sì, su un modello lombardo. E tu hai importato un'idea che lì non c'era, che non esisteva. Esatto. A me sei stata brava, scusa. Esatto. Non sei contenta di questo? Sì. Anche quello l'ho dovuto chiudere. Perché? Perché lui si presentava tutti i giorni al negozio. E voleva i soldi? Voleva i soldi? In realtà voleva che io tornassi a casa, però... Ah, quindi sei stata stalkerizzata praticamente da questo? Un pochino, sì. Mi viene e dice, no, ti prego, non mi lasciare, torna con me. Esatto, pratica cena. Non lo faccio più, lo dicevo, oppure no, questo no? Sì, sì, certo. E tu non gli hai creduto nemmeno un minuto? No. Tanto il negozio, se non lo chiudevi, te lo dovevi vendere, quindi forse hai fatto bene. Perché... Ma non ci hai provato nemmeno a vedere che forse poteva cambiare, o avevi proprio capito che non l'avevi proprio inquadrato? No, inquadrato. Hai capito che torno a fare? Non ho tenuto mai la tentazione una volta, riproviamo, diamogli una seconda occasione. No, non c'era più modo, perché io non ero più disposta ad avere problemi economici. Ma c'hai ragione, è una cosa terrificante. Scusa, hai lavorato tutta la vita, sei riuscita con dignità, nonostante, diciamo, le tempeste familiari, matrimoniali, a mantenerti questo con grande dignità, quindi questo ti fa onore. Ti sei fatta venire delle idee, hai fatto l'imprenditrice, in modo di tutto buttare a monte, perché quello voleva giocare col calcio scommesse. Ma figurati, hai fatto bene. Sì, però non, a quel punto non mi sentivo più a casa neanche lì. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Per quello mi sono allontanata ancora un'altra volta. E dove sei andata? Sono andata più a sud delle Marche. Mi sono spostata a Fano. E lì che hai fatto? E lì ho cominciato a arrangiarmi con dei lavoretti un po' precari. Però posso dirti una cosa, prima che vai avanti. Sì. Devo dire, saranno state quelle che saranno state, ma ti hanno educato bene le suore. Non ti sei data per persa nemmeno un minuto. Hai sempre ricominciato da capo e totalmente sola, penso. Nel frattempo non mi hai nominato un altro essere umano che non sia il primo uomo e il secondo uomo. Quindi non hai avuto... E l'amica che te l'ha presentato il secondo uomo, di cui rivedo adesso il ruolo salvifico nella tua vita. Forse era meglio che non te lo presentassi, che ne so. E poi che hai fatto allora? Mi sono reinventata una seconda vita professionale e faccio la tassista. Ah, quindi hai preso la licenza da tassista? Ho preso la licenza della tassista. Che non è facilissimo anche quello, penso, no? Non è una cosa così immediata, penso. Ma ci sono voluti un po' di mesi per la preparazione della documentazione, per l'attestato. E poi hai dovuto anche comprarti il taxi, penso, no? Sì, però ho avuto la fortuna di acquisire la licenza di una persona che andava in pensione. Ah, beh, costano molto, mi sembra, le licenze che si vendono, no? Parecchio. Sì. Diciamo, ci hai investito tutto quello che avevi messo da parte in anni di lavoro. Sì, esatto. Sì, perché i tassisti dicono sempre la mia liquidazione, dicono sempre tassisti a licenza la mia liquidazione. Bravissimo. Praticamente tu hai l'equivalente di una liquidazione, tu l'hai investito per una nuova attività. Esatto, ma che d'altra parte io ho scoperto che alla fine è il lavoro che avrei voluto sempre fare nella vita. E ti piace fare la tassista adesso? Sì, adesso sono 3 anni che faccio questo lavoro. Tutti i turni fai tranquilla, senza problemi, anche la notte? Faccio i turni, anche la notte. Ma perché ti piace questo lavoro? Perché puoi parlare con le persone e non sei obbligata a sposarli, ecco questo forse. No, perché? Fammelo capire. No, perché c'è la parte empatica di me che nel corso degli anni ho potuto sviluppare, lontana, appunto affrancata da tutte le vicende familiari. Quindi è una palestra di relazione, tu puoi parlare con delle persone senza doverti impegnare, questo è bello. Esatto. E poi ti pagano pure alla fine, bellissimo. Esatto. E è tutt'uno, perché diventi un punto di riferimento per diverse motivazioni, perché guidi e quindi la loro vita è nelle tue mani, sei un punto di riferimento per quanto riguarda le confidenze. Questo è vero. Sei un punto di riferimento anche dal punto di vista medico, perché io ormai conosco tutte le patologie, perché anche degli sconosciuti. E come mai, scusa, che questo non l'ha capita? Perché quando si prende una persona all'uscita dell'ospedale, per dire... Ah, ecco, perché tu immagini comunque, diciamo, il tuo raggio d'azione, stando in una piccola città, fai sempre gli stessi giri alla fine, capito? Esatto. E immagino che in una provincia piccola il taxi si prende, ecco, uno dei motivi quando uno va all'ospedale o esce dall'ospedale. Quindi prendi sempre della gente o che va all'ospedale o che torna all'ospedale. Anche. E quindi anche. Sai tutto, ti fai raccontare nei minimi particolari le malattie, le operazioni, le degenze, i decessi e tutto. Quindi sei diventata un quasi medico per trasporto di pazienti, ecco, una cosa del genere. Esatto, più o meno. E questo ti diverte, la gente ti racconta le malattie, ti diverte. Parecchio, adesso che uso la mascherina per guidare rido sotto la mascherina. Ma sai, guarda che è una patologia psichiatrica, quelli che vogliono sempre parlare di malattie. Ci sono gente che gode nel parlare di malattie, legge sempre le enciclopedie mediche, o sono ipocondriaci, hanno pure di star male, però gli piace proprio parlare delle malattie degli altri. Vabbè. Ma soprattutto con gli sconosciuti, che è un po' come... Ma potevi fare il medico, se dovevi studiare da dottore, facevi il medico, l'infermiere, capito? Ci ho mai pensato? No, è tutto del tutto involontario. Loro partono in quarta non chiedendomi se io voglio conoscere per filo e per segno. Vabbè, non chiedono di meglio. Figurati, io di solito cerco di evitare, perché sono le persone che ti raccontano le malattie a tavola, soprattutto ti cominciano a raccontare della loro colonscopia, della loro ulcera, della gastrite, di tutti i mali possibili, e ti passa la fame. Ti solleva da quelle che sono probabilmente le tue mestizie, le tue angustie, sapere c'è qualcun altro che sta male e sta peggio di te, e questo ti fa sorridere e dici, beh, vedi, tutto sommato io almeno la salute ce l'ho. E questa è la stretta finale. Però la svolta, oltre che professionale, è stata anche dal punto di vista, diciamo, sentimentale. Ti sei messa con un bel malato di quelli seri? No, non so. Alla fine ho incontrato una persona che veramente mi ha tirato fuori. Un infermiere, cosa fa nella vita? No, è una persona che è un autista della raccolta dei rifiuti. Beh, più o meno fate lo stesso lavoro, fate lo stesso, esatto, lavoro. Sempre servizio pubblico. Cioè, lui raccoglie rifiuti nel senso di, diciamo, di materiale da pattumiera, tu raccogli gli umani malconci, alla fine, alla sera vi dite, tu che hai portato? Ma io ho portato sei gastriti, due ulcere, una vena varicosa e due emorroidi. Tu che hai portato? Io ho portato rifiuti speciali, vetro, carta, umido, bello. Beh, devo dire. È la persona con cui posso condividere veramente. Ma di che parlate la sera, scusa, del vostro lavoro? Tu gli racconti i malanni e lui ti racconta che c'è nei cassonetti, come funziona? No, beh, non è esattamente così. Ci raccontiamo i progetti per girare con la moto, per... Fate una vita, diciamo, non è che pensate solo al lavoro. E vivete insieme, no. Finalmente hai trovato l'amore, allora. Non viviamo ancora insieme, però... Bisogna pensarci. È un passo che bisogna pensarci. Ancora non sei matura per farlo, evidentemente. Ma perché dovete vivere insieme? Scusa, tanto state in una città piccola. Vi vedete quando volete. Anche qui vorrei provare un'altra volta a fare il matrimonio, lo sposalizio, queste cose qua. Non lo sappiamo. Vabbè, vi divertite adesso? Siete contenti? Adesso finalmente sono libera come intendevi tu. È cambiato voce, è cambiato. Pensa, quando parli di questo terzo uomo, finalmente, è dovuto aggiustare il tiro due volte, capito? Prima un triste farlocco, poi uno sciagurato dipendente, finalmente trovato un sano autista di nettezza urbana che però ti riesce a far palpitare, ti dà degli aspetti della vita che tu non ti immaginavi. E ti piace quest'uomo? Sei contenta? Assolutamente. La tua voce è stata articolata diversamente a seconda dell'uomo, delle tre tappe fondamentali della tua vita di cui parli, di cui stavi descrivendo. Questo ne parli con grande euforia e allegria. Sei una persona educata alle suore, quindi non fa trapelare mai nulla di interiore che possa in qualche maniera metterla in difficoltà. Però si capisce, questo uomo ti fa palpitare, si capisce, ti è cambiata la voce, figurati. Assolutamente sì, adesso sono in difficoltà. Perché sei in difficoltà? Vedi come pesa l'educazione delle suore. Comunque sono contento, ma perché pensi che non te lo meriti questo? Sì, ma lo merito come? Allora, me lo merito. Alla fine, figliuola, la provvidenza, ecco, è arrivata la provvidenza, visto la forza di sentirne parlare, ti è arrivata. Senti, il mio viaggio in treno è finito, il tuo continuerà e continuerà tante volte, e mi dispiace che se avessi avuto più tempo ti raccontavo qualche malattia per farti un po' più contento, ma sarà il prossimo giro. Ciao, buon viaggio, ciao. Va bene, grazie anche a te.